A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Matteo Comes in regia. Una precisazione che mi arriva da un SMS: io non ho mai detto ieri di essere favorevole al doping nello sport, tanto che mi hanno accusato la maggior parte degli ascoltatori di aver crocifisso Alex Schwarzer, che oggi ha parlato e poi sentiremo, e ha raccontato tutta la sua verità in lacrime. Questo gli rende onore, perché almeno non si è unito alla comunità di quelli che hanno così levato gli scudi alla loro innocenza fino alle varie controanalisi che poi gli hanno comunque inchiodati inventando scuse puerili. Schwarzer almeno non si è nascosto, e questo, ripeto, gli rende estremo onore. Non ho mai detto di essere d'accordo con il doping nello sport, il contrario semmai, se no non sarei stato così arrabbiato e così duro se lo sono stato ieri con Alex Schwarzer. Ho detto che possiamo aprire un dibattito sulla liberalizzazione del doping nello sport, se vi pare, ma questo non vuol dire che io sia favorevole al doping nello sport, perché il doping nello sport è semplicemente rubare. E cercare di farla franca, è un comportamento scorretto, è la condanna a morte dello spirito sportivo, secondo me. Dario Ricci, nostro inviato alle Olimpiadi a Londra. Ciao Dario. Ciao Carlo, eccoci qua da Londra. Una mattina di attesa. Dimmi. Cosa? No, dico, continuo più sulla mia posizione, perché con un braccio sto registrando un'intervista con Gianluca Vialli e con l'altro tengo il telefono sperando di averlo fra poco in diretta con te, quindi sì. Insomma, equilibrismi olimpici, diciamo così. Equilibrismi olimpici, quelli che non sono riusciti ieri a Vanessa Ferrari, pur tra mille polemiche. Eh sì, infatti non niente da fare per Vanessa Ferrari, sicuramente è stata una grande amarezza quella di sofferta ieri dall'atleta bresciana. È vero pure che Vanessa, sempre da italiana, sempre con delle giurie internazionali, è diventata campione del mondo, no? Negli anni passati. Quindi sicuramente il problema delle giurie c'è sempre, anche stata una finale in cui tutte erano campionesse o mondiali o olimpiche, quindi una finale di altissimo livello, e le due cose si sono incrociate purtroppo senza centrare il bersaglio per Vanessa. Sì, tra l'altro il regolamento cambiato a maggio alla vigilia di queste Olimpiadi, regolamento che dice grosso modo che a parità di punteggio conta la qualità dell'esecuzione e non la difficoltà dell'esecuzione stessa, quindi questo ha penalizzato Vanessa Ferrari, che ha comunque tentato ed eseguito un esercizio molto difficile nella finale, e c'è questo quarto posto che non ha proprio digerito. Sentiamo cosa ha detto. Sì, sinceramente quella che ha vinto il bronzo partiva 3 decimi in meno di me, e la seconda, che in qualifica aveva fatto male e non doveva essere nemmeno in finale, l'hanno buttata dentro, aveva il mio stesso valore di partenza. Io ho fatto l'esercizio bene, lei anche, quindi secondo me meritavo minimo il punteggio della seconda, però evidentemente l'Italia in questo sport non è ben giudicata, e quindi è andata a finire così. E beh, polemica se non poco, Vanessa Ferrari, Dario. L'Italia in questo sport non è particolarmente ben giudicata. Eh sì, ma in realtà anche il suo tecnico Casella l'ha sottolineato, cioè scisso tra l'accettazione di un risultato tanto amaro e il fatto che comunque sicuramente paesi come Romania, Russia, Stati Uniti, Cina esercitano sicuramente un'influenza che poi si tramuta in una sudditanza psicologica, no? La conosciamo bene anche in altri ambienti, magari a noi più familiari, no Carlo? E inevitabilmente spesso rimane quel mezzo centesimo in più o in meno di punto che cambia poi i risultati. Le delusioni di ieri non sono finite lì, perché c'è anche la pallavolo femminile che è finita fuori con la Corea, quindi abbiamo una Corea anche nella pallavolo. Dopo aver vinto il primo set ci hanno preso a pallonate, Dario. Assolutamente sì, davvero dispiace il naufragio di questa squadra, perché è una generazione d'oro che ha vinto tutto e tanto, e peccato anche per il coach Barbolini, che è persona quanto mai equilibrata, misurata e conoscitore, esperto conoscitore del gioco, ma ieri si è vista un'Italia tra le più brutte in quei 3 set che diventano già un incubo olimpico, che si sommano alla maledizione che non ci vede mai oltre i quarti, no? soprattutto certo. Nelle ultime tre edizioni. Un'Italia troppo brutta, troppo lenta, troppo imprecisa in ricezione per essere vera e soprattutto per entrare in questa semifinale. Adesso ne abbiamo altre due di Italie, che sono quelle della pallanuoto e della pallavolo stasera, ma gli impegni non sono semplici, soprattutto per il Sette Bello. Direi che se per il Sette Bello la sfida è equilibrata, perché ci arriviamo da campioni del mondo contro i campioni olimpici, tre volte campioni olimpici in carica. Con l'Ungheria la sfida improba forse è proprio quella per il volley maschile, perché gli Stati Uniti quando vedono i cinque cerchi vanno fuori di testa, danno sempre il massimo. L'abbiamo visto a Pechino, oro a sorpresa, che in una cavalcata iniziata proprio contro l'Italia con una vittoria per 3-1 hanno recuperato tutti gli effettivi, hanno fatto un ottimo girone di qualificazione, tutto il contrario dell'Italia di Berruto. Vediamo se oggi dalle 17, ecco, questo risultato può cambiare. Dunque, io vi invito anche a partecipare a 800 24 00 24, come già detto. Io ho una dichiarazione di Patrizio Oliva battuta dalle agenzie su Alex Schwarzer. Oliva durissimo, non doveva neanche parlare, è sembrato fuori di testa. Il discorso economico nello sponsor alle spalle, sono avvilito nel sentire certe cose, un'offesa a tutti gli atleti italiani, si è dopato premeditatamente, ora cerca compassione. Ci vuole la radiazione, non deve essere neanche in una palestra a livello amatoriale, ci ha fatto rischiare anche un incidente diplomatico con la Turchia, con quelle parole. Se ho crocifisso Svizzera, Oliva cosa ha fatto? Insomma, io continuo a pensare, nonostante i messaggi che scrivono nessun onore, un imbroglione che ammette perché si augura di avere sconti e clemenza dalla corte, oppure non c'è nulla che renda onore ad un atleta che bara, anche perché confessa, perché è scoperto, quindi solo per sperare in uno sconto di pena. Questo lo scrive Giulio, che aggiunge un vergogna. Beh, Alex Schwarzer ha raccontato tutta la sua verità. Io non so se sia davvero tutta la verità, non lo so, lui ha detto così, ma io non lo so, continuo a tenermi i miei dubbi che tutti fossero davvero all'oscuro, e suo allenatore, il CONI e tutta la gente che gli sta intorno. Insomma, è un atleta di fama mondiale, di livello olimpico, è una delle punte di diamante della nostra spedizione azzurra, va in Turchia, come tra poco sentiremo da lui raccontare, mette 1.500 euro sul tavolo della farmacia, si porta a casa l'Epo, la mette in frigorifero, se le niente tra metà luglio e la fine di luglio. Tra l'altro Schwarzer non aveva firmato, anche questo ci sarebbe da domandarsi le ragioni, non ha firmato la carta antidoping, non ha firmato l'accordo antidoping proposto a tutti gli atleti dal CONI, e anche qui ci sarebbe da domandarsi perché. Poi c'è chi scrive: per ricostruirsi come uomo consiglio a Schwarzer di andare nelle scuole a spiegare cosa può succedere dopandosi, scrive Davide da Mantova. Io non credo, guardi, Giulio o altri ascoltatori che scrivono cose del genere, che abbia raccontato tutto per sperare in uno sconto di pena. Io credo che Schwarzer, che ha dichiarato di aver perso gli stimoli, la voglia di soffrire, la voglia di marciare, la voglia di divertirsi soffrendo e marciando subito dopo l'oro nelle Olimpiadi di Pechino, credo che chiuderà qui la sua carriera. Non credo che stia sperando in uno sconto di pena. Continuo invece a pensare che questa confessione pubblica, così dolorosa, così giustamente sofferta, gli renda onore, perché siamo abituati ad atleti con la faccia di tolla che arrivano lì e dicono: no, io non ho fatto niente, me l'hanno messo nella minestra, c'è un errore, c'è un complotto. Troppe volte abbiamo sentito, ci siamo sorbiti frottole di questo tipo. Ora un atleta che, è vero, viene beccato, però va lì davanti a tutti pubblicamente e ha il coraggio comunque di raccontare tutta la sua storia e di ammettere tutta la sua storia, beh, per me merita rispetto. Tra l'altro Schwarzer ha già detto che andrà a restituire la pistola e il distintivo dei carabinieri, mentre alcuni ascoltatori sono di idea opposta. Schwarzer non deve uscire dall'arma, c'è chi ha fatto peggio, indossa ancora una divisa, eccetera eccetera. Vi faccio sentire una prima dichiarazione della conferenza stampa di oggi di Alex Schwarzer. Io a fine anno scorso, dopo tre anni molto difficili e le aspettative che avevo e di tornare molto più forte di prima, non sono più riuscito a dire di no a questa decisione di doparmi per le Olimpiadi nel 2012 e ho fatto questo grande errore. Ho fatto questa decisione da solo, perché se fai questa decisione devi deciderti se lo dici a qualcuno o no. Sono andato all'estero, di preciso in Turchia da solo, e ho preso l'eritropoietina in farmacia. Sono voltato con me 1.500 euro che ho cambiato in Turchia e ho dato al farmacista e ho detto cosa voleva. Poi sentiremo altre cose dette da Schwarzer. Intanto anche oggi, per fortuna, non ci faremo più tardi mancare la nostra medaglia quotidiana, medaglia vera olimpica. Fabio da Milano, primo ascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta. Ascolti, io volevo intervenire sulla conferenza di Schwarzer. Premetto che sono d'accordo con lei quando dice che bisogna rendergli in qualche modo, diciamo, onore, nel senso che a me è sembrata una conferenza molto... a me personalmente mi ha fatto venire un po' anche un po' di nodo in gola, diciamo, mi è molto dispiaciuto per l'uomo, ecco. Ci ha messo la faccia, ci ha messo la faccia, ci ha messo la faccia. Sì, sì, no, ma poi tra le altre cose parlava molto coperto, cioè si vedeva che era provato indubbiamente, quindi da questo punto di vista io non... come dire, non mi sento di criticarlo. Poi sarà squalificato a vita e vabbè, quello nel senso si è dopato e quindi va in qualche modo punito. Però quello su cui volevo intervenire era un passaggio della conferenza, quando ha parlato della federazione, sì, dei corpi, il fatto che gli atleti si debbano iscrivere per forza dei corpi militari, altrimenti non hanno la possibilità di fare sport. E cioè, da quel punto di vista, secondo me, ha perfettamente ragione. Sì. Cioè, è inutile nascondersi dietro magari delle parole. Voglio dire, Bizzoni va in finale a 40 anni ed è l'unica finale dell'atletica leggera italiana o quasi che finora abbiamo ottenuto alle Olimpiadi, e sono sicuro che torneremo a casa senza neanche una medaglia. Voglio dire, la Gran Bretagna ha organizzato i giochi, da quando ha avuto la possibilità di farli ha messo in atto una programmazione, adesso è terza nel medagliere. L'Italia, sono convinto che se adesso avesse la possibilità di organizzare i giochi fra 7 anni non otterrebbe sicuramente gli stessi risultati che sta ottenendo per esempio la Gran Bretagna, perché sì, c'è proprio un problema di fondo a mio modo di vedere. Beh, non so se lei è d'accordo. No, sono d'accordissimo, c'è un problema di fondo che è quello della gestione dello sport, che è quello delle strutture, che è quello molto più profondo e radicale dello sport nelle scuole. Insomma, inutile stare a tirar fuori la parola cultura dello sport, che in Gran Bretagna esiste fin dalla più tenera infanzia, da noi no. Ed è ovvio anche che per questi sport che chiamiamo minori, ma soltanto per comodità, la via è quella dei corpi di Stato, perché altrimenti non riesci ad avere i soldi per mantenerti. Se fai atletica, se fai canottaggio, se fai canoa, se fai sport di questo tipo, quindi la via italiana è questa, molto anacronistica, non ci sono discussioni. Sentiamo un altro passo delle dichiarazioni di Schwarzer. Psicologicamente per me è stata una mazzata, perché ogni giorno dovevo dire le bugie a mia fidanzata. Ogni giorno mi sono alzato alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, alle 5, guardando sull'orologio, perché sapevo che dalle 6 in poi può venire un controllo antidoping, dove dovevo dire a mia fidanzata di non aprire, perché sennò ero positivo. Lunedì 30 ha suonato a casa mia e io sapevo che era il controllo antidoping. Io non avevo più la forza di dire a mia madre non aprire, perché e dire o se apri di che non ci sono, che io non ci sono, perché io lo potevo fare, perché forse chi sa la materia sa che in 18 mesi uno può saltare 2 controlli, io non ho mai saltato uno, però devo dire che non avevo più la forza e io non vedevo solo l'ora che finisce tutto. Francesco, Trieste. Allora, signor Genta, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi sente? Sì, sì, la sento. Perfetto. Io ho provato a chiamare ieri sull'onda emotiva, perché la sentivo giustamente arrabbiato, come lo ero anch'io, e come penso fossero tante persone. Ero appena tornato, tra parentesi, da Londra. Ora, il discorso, non voglio dire che le abbia crocifisso qualcuno o meno, ognuno è responsabile dei propri errori, ammesso che li faccia, e penso che altro che errori abbia fatto Schwarzer. solo due piccole precisazioni. Una, quando io ero ragazzo, cioè tanti anni fa, il mio idolo di atletica era Edwin Moses. Sì. Però in assoluto dicevo sempre, accidenti, c'è qualcuno, era l'ostacolista tedesco, che ogni volta va in pedana e corre sapendo di arrivare secondo e comunque ha sempre fatto la sua gara con onestà. Quello per me è un vero campione, molto più di chi a un certo punto ha paura del proprio limite e dice ok, cerco la scorciatoia. Questo è, come dire, quello che io sento. La riflessione che vorrei fare, proprio riguardo di quello che diceva lei ieri, possiamo anche decidere a un certo punto come professionismo, prendendocene le responsabilità, di trasformare lo sport in una forma di moderno gladiatoriato, cioè nel senso, prima o poi ci scappa, però si fa una serie di studi, qual è il limite del corpo umano, lo si porta avanti con l'EPO, con la cera, con qualsiasi tipo di doping, però a quel punto non ci si nasconde dietro il dito, e si fa gladiatore, non si fa più sport. Ma chiaro. Questo discorso, tra parentesi, non penso di averlo fatto solo io, un po' sottotraccia persino a Londra, dove c'è una simpatica esposizione alla Fondazione Wellcome che si chiama Superhuman, che proprio esplora i limiti del corpo umano al 650 a.C. fino a circa al 2050 e porta avanti questo discorso, guarda caso, sullo sport, tra le altre cose, in un periodo in cui a Londra c'è lo sport. C'è anche una simpatica installazione di fabbrica, che credo sia il gruppo Benetton, che fa il lanciatore del dope. C'è una statuetta fatta di 45.000 pillole che invece di lanciare il peso lancia una fiala di sangue. Il che significa che comunque in atmosfera olimpica questo discorso è ben più che sottotraccia, è ben chiaro e tutti lo sanno, solo che in Italia questi controlli, grazie a Dio e per fortuna, in un modo... vengono fatti, in altri paesi un po' meno. È semplicemente questo. Poi chi sia colpevole, cosa abbia fatto, è una cosa che riguarda, come dire, un po' la coscienza di ognuno di noi, e quindi ognuno di noi riguarda, deve farci... che riguarda un po' tutti, no, riguarda un po', non riguarda solo il diretto interessato, come si pone, però nessuno crocifigge nessuno, alla fine ognuno resta il giudice, il boia e l'impiccato di se stesso. Io almeno la vedo così. Poi, ma guardi, un'altra riflessione che io posso aggiungere è che dal punto di vista che con il regime di squalifiche attualmente vigente, non sto parlando di Schwarzer, alla fine il ricorrere al doping per un atleta, non so, un ciclista, per un per Gatlin, eccetera, può alla fine essere addirittura conveniente. Dal punto di vista economico, so che sto dicendo una cosa aberrante, però ragionateci bene. Ti beccano, prendi i tuoi 2 anni di squalifica, 1 anno e mezzo, e poi torni a correre. Fai i tuoi conti, magari hai vinto qualcosa, hai intascato dei soldi pur non essendo pulito, eccetera, eccetera, poi torni a fare il tuo mestiere. Allora, possiamo anche ragionare su pene più dure, su pene che magari draconiane, ma che tolgano questa convenienza nella ricerca della prestazione, mettiamola così. Anche questo può essere, non voglio parlare di radiazione, però è quello che sto sottintendendo, no? Perché se la pena è quella, allora uno ci pensa qualche volta in più. Mentre Dario Ricci è sempre collegato con noi, vorrei parlare di una medaglia, questa. Matteo Morandi, l'hai riconosciuta questa musica? Eccomi, sì, riconosciuta. Cos'è? Ciao a tutti. Signore degli Anelli. Signore, grazie per il complimento. È lì che siamo arrivati. Ti ho sentito dichiarare, adesso non dovrò più chiedere consigli a Yuri Chechi. Possiamo farci parlare della nostalgia di Yuri Chechi. Anche lì è stata creata un pochino la polemica, ma Yuri sa benissimo che tra di noi siamo abituati a scherzare. Era ovviamente un modo di dire, per lui ho massima stima. Certo, la tua gara. Cioè, me la racconti in due parole? Sicuramente l'obiettivo principale, come avevo detto prima di venire qua, era quello di riuscire a portare a casa una medaglia. È andata così, quindi sono contentissimo, sono sicuramente molto sollevato, più leggero di prima. e è andata bene, dai, sicuramente ho avuto delle belle sensazioni, mi sono goduto la finale, ho cercato di stare tranquillo, di gestirla nel meglio possibile. Sì, avevi anche tutta la famiglia intorno, sentivi comunque l'appoggio di tante persone? Sì, sicuramente, prima di tutto della famiglia, mia moglie, mia figlia Gaia, l'aeronautica militare, che sicuramente erano tutti a casa a tifare per me, quindi che poi mi aiuta e faccio parte della famiglia dell'aeronautica ormai da 9 anni, quindi sì, era sicuramente tanta la gente che mi stava vicino. Ecco, ti giro una domanda che mi ha fatto un ascoltatore: ma è possibile in Italia fare sport come il tuo, come il canottaggio, come l'atletica, senza avere l'aiuto, il supporto e l'apporto dei corpi dello Stato? Per noi è veramente difficile, diciamo che arrivi a una certa età, poi quando passi la maggiore età o passi a, come nel mio caso, l'aeronautica o a un gruppo sportivo, o se no veramente diventa difficile, devi sempre comunque avere dietro una famiglia che ti sussiste e assiste. Sì. Non è facile, purtroppo così noi ci siamo abituati ormai, si chiamano sport minori, ma semplicemente sono minori per lo stipendio più basso. Senti Matteo, ti chiedo un'ultima domanda, è difficile perché riguarda le tue sensazioni, lo sto vedendo piangere sugli schermi in questo momento su Alex Schwarzer. Sicuramente quello che è successo non dà una bella immagine di quello che dovrebbe essere lo sport, come in questa occasione qua dell'Olimpiade. A me dispiace, sicuramente adesso ne pagherà le conseguenze. Bisognerà vedere se dietro a tutto questo c'è solo lui o anche qualcun altro, certo, intorno a lui più che altro, certo, che magari ne ha anche le colpe. Certo. E sicuramente è un momento dove pagherà, ripeto, le conseguenze. Sarà anche sbagliato, bisogna secondo me stare anche attenti ora a non lasciarlo completamente da solo. Grazie Matteo, i complimenti. Grazie a voi, ciao. Grazie Matteo, ciao, grazie soprattutto per quella medaglia che ti stai portando ora a casa. Salto subito da Dario Ricci, nostro inviato a Londra. Eccoci qua a Londra, ospite davvero d'eccezione, un londinese diciamo, Gianluca Vialli. E allora grazie per essere nostro ospite. Gianluca, ti chiedo subito come hai vissuto, come stai vivendo queste Olimpiadi, tu che Londra la conosci bene. Ma c'è una bellissima atmosfera, Londra è una città fantastica, cosmopolita e multirazziale, e con le Olimpiadi lo è diventata ancora di più. E è la casa dello sport, e quindi insomma, per me che sono un ex sportivo professionista e vivo a Londra da 15 anni, è un momento molto speciale. Mi sto divertendo molto, vedo pochi eventi live, li guardo tutti su Sky perché poi devo essere pronto la sera a partecipare alla trasmissione Venuti sul Podio, in cui devo parlare di tutto. E quindi ho visto una gara di ciclismo che mi è passata davanti a casa, oggi forse vado a vedere la pallavolo, ma purtroppo ho visto poco dal vero e mi dispiace. Senti, domanda ancora olimpica: ce la fa questo Brasile a portarsi a casa quest'oro contro il Messico nella finale? Ecco, questa è una cosa di cui parlo volentieri. Ieri sono andato a Wembley e ho visto Messico contro Giappone e c'era un'atmosfera stranissima. Stadio pieno, ma pubblico con un atteggiamento molto teatrale, e quindi credo che abbia contagiato un po' anche il modo in cui i giocatori hanno interpretato la partita. Spero che sia diversa col Brasile, sono convinto che sarà diversa, perché poi si affrontano due squadre sudamericane, porteranno molti tifosi con una passione particolare allo stadio, e il Brasile è una squadra fortissima, credo che già oggi potrebbe schierarla in un mondiale e fare una figura più che dignitosa, e saranno ancora più forti tra 2 anni, perché credo che il progetto sia quello proprio di crescere questa squadra anche attraverso l'esperienza olimpica, per poi trovarsela pronta quando giocheranno i mondiali in casa tra 2 anni. Dall'Italia invece arrivano notizie meno liete, guardiamo un attimo in casa Juve. Pensi che tutta questa vicenda avrà ripercussioni chiaramente sulla stagione che sta a iniziare, e nel caso Carrera potrebbe essere un sostituto di Conte, tu che lo conosci come compagno di squadra e giocatore? No, non lo so, aspettiamo prima di tutto di vedere quelle che saranno le decisioni che verranno prese nei vari gradi di giudizio. Il campionato preannuncia molto incerto, la Juve credo che sia comunque la squadra da battere. Poi la Juve, tornando alla tua domanda, è molto esperta e molto brava anche a gestire situazioni non ideali, difficili, complicate, e riesce sempre a girarle in modo da poter trovare da queste situazioni energia, stimoli, e quindi eventualmente non credo che possa essere un problema grossissimo. Non è ideale, però insomma credo si possa fare bene lo stesso. E sarà un campionato incerto, la Juve c'è la Champions, quindi rispetto all'anno scorso ha degli impegni che si aggiungono a quelli del campionato. Inter e Milan sono ripartite con una nuova filosofia, giocatori nuovi, un generale ringiovanimento. La Roma è una squadra nuova, il Napoli non fa la Champions, è sempre una squadra molto solida, perciò c'è molta incertezza. Speriamo sia un campionato molto equilibrato fino alla fine. Un'ultima battuta, Dario. Pensi, eccomi Carlo. Riesci a passarmi un attimo Gianluca Vialli al telefono? Ecco, ti passo un attimo Carlo Genta in diretta. Sì, ciao Carlo. Ciao Gianluca, volevo solo salutarti. Abbiamo fatto due chiacchiere io e te davanti allo stadio di Varsavia, no, prima dell'inizio di Italia-Germania. E quella sera quelle chiacchiere portarono fortuna all'Italia e a Balotelli. Che cosa ti aspetti da Balotelli in questa stagione? Crescerà finalmente? Sì, no, ma io credo che lui stia crescendo, magari non alla velocità in cui tutti si augurano, però credo che stia crescendo attraverso le sue esperienze, i suoi errori, le cose che fa meglio poi in campo, e quindi credo che stia maturando come uomo e anche come calciatore. Non si nasce imparati. E quindi ci vuole un po' di tempo per raggiungere l'equilibrio, la maturità e il rendimento ideale. È chiaro che essere nella sua condizione non è semplicissimo, essere Balotelli in Italia non è la cosa più facile del mondo, tutti gli occhi addosso, e quindi c'è molta pressione. A volte, come dicevo prima, lui ci mette del suo, però credo che abbia dimostrato di poter essere un grandissimo centravanti, e quindi gli auguro di continuare a migliorare, all'allenatore giusto per farlo, e spero che continui anche a giocare così in nazionale. Ciao Gianluca, grazie, a presto. Ciao, grazie a voi. Grazie ciao, Gianluca Vialli. Grazie Gianluca Vialli e a Dario Ricci, naturalmente, che rimane collegato con noi lì dalla presentazione dei palinsesti di Sky che avviene oggi a Londra. Non sono d'accordo su questo messaggio, la radiazione è inutile, ricordati che il vero deterrente è la certezza della pena, non la gravità. Sposo la teoria in valore assoluto dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sportivo invece meriterebbe una riflessione più approfondita, perché la certezza della pena esiste, ti prendono positivo a seconda delle valutazioni, ti fai il tuo anno e mezzo, Contador ha appena finito la sua squalifica e se l'è scontata tutta, quindi la certezza della pena esiste, però sono pene che non possono costituire, a mio parere, un deterrente sufficiente. Maurizio, Roma, poi Antonio da Udine. Maurizio, salve. Sì, sono un semplice osservatore delle Olimpiadi. Sì. E sono sconcertato da quello che sento dire. Quindi esiste il dubbio che qualcuno che sale sul podio sia affetto da doping, perché ci sono sostanze considerate doping. Quindi mi pare che chiunque, dati i tempi, salga sul podio si debba sottoporre a un esame. Sì, di questo genere. A svariati esami. Io la sento dire, se ti beccano, ma la cosa non è possibile. Come se ti beccano? Ma chiunque è vincitore di un premio così importante deve sapere che dovrà sottoporsi a un test del genere. Sì, e lo fa. Questo mi pare che sia abbastanza un deterrente. Lasciamo perdere le prove intermedie. Non dimentichiamo però, Maurizio, un discorso antipatico quanto importante. L'antidoping, sebbene ormai molto efficace, rimane sempre di rincorsa rispetto al doping. Dunque c'è chi riesce a farla franca, c'è chi calcola bene i tempi, c'è chi sbaglia dosaggi, insomma non voglio entrare nella farmacologia, però i controlli esistono, sono molto seri, molto stringenti, però adesso addirittura si parla di doping genetico, non da ora, ma da qualche da qualche anno si parla di doping genetico, se ne è parlato e si è avanzato questo sospetto a proposito di quella nuotatrice cinese che ha fatto dei tempi fuori dal mondo, onestamente, nuotando nei misti in alcune frazioni più velocemente rispetto a Phelps e a Lochte, e questo non credo stia nella possibilità umana, quindi il dubbio ce l'ho e me lo tengo. L'antidoping esiste, non è detto che nel dato momento in cui viene realizzato sia efficace, questo voglio dire. Antonio da Udine. Pronto? Antonio, dica. Buonasera signor Genta, senta, ho letto una notizia su un giornale, Cavani sta per passare al Chelsea. Voi ne sapete di più? No. Io so che Mazzarri ha avuto la pensata di mandare due spie in incognito all'allenamento della Juventus a Pechino. Oui, piccolo amico giallo. Lui sa che io sono unico e pertanto indispensabile. Sappi che tutti i grandi detective hanno una cosa in comune, e sai qual è? L'istinto. Quella rara abilità di capire al volo senza doversi fermare e riflettere. E nel mio lavoro può significare la differenza tra la vita e la morte. Merci. Oui, quella frazione di secondo in cui l'istinto ti dice che... La nuova ondata di... Beccate le spie di Mazzarri in incognito all'allenamento della Juventus a Pechino e allontanate. Episodio, se vogliamo, anche simpatico. Su Cavani che stia per passare al Chelsea non saprei. La mia impressione è che Cavani farà ancora una stagione, una al Napoli, l'anno prossimo verrà ceduto. Questa è la mia sensazione, quindi si ripeterà, ma anche su questo non ho certezze, però mi sembra che la filosofia di De Laurentiis sia piuttosto ben delineata. D'altra parte ha raccontato in retroscena della cessione di Lavezzi, che già l'anno scorso ha chiesto di essere ceduto, ha detto: ascolta, stai qui ancora un anno e poi l'anno prossimo prometto che alla giusta cifra ti lascio andare, mantenendo la promessa. Vado da Dario Ricci di nuovo. Eh sì, Carlo, perché ospite merita tutto il tempo che abbiamo, perché abbiamo Max Rosolino, atleta, campione del nostro nuoto, in questa Olimpiade anche commentatore del nuoto per Sky. Beh, Max, si è sparato a zero su questo nuoto, che ha portato del resto zero medaglie, adesso a mente fredda, riflessioni che cambiano, qual è la tua valutazione? Ma diciamo la verità, che il nuoto è vero, purtroppo abbiamo fatto tutti quanti la considerazione, ha fatto la fine del Titanic, perciò è caduto a picco. Purtroppo non diventeremo famosi per un film. A parte questa, diciamo, verissima verità, sono certo che lo staff tecnico e la parte dirigenziale farà un esame a freddo, credo che sia la cosa migliore già adesso che sono rientrati in Italia. Poi gli atleti, ovvio, che dovranno cercare di essere comunque più determinati, indipendentemente dal risultato che faccia il compagno di squadra, dalla battuta che dice l'amico o nemico o della fidanzata, e mi auguro che il nuoto torni a conquistare quello che merita. Senti, ieri mi ha fatto veramente rabbrividire nella intervista al TG1 di Alex Vatter quel riferimento proprio alla piscina, a quello che abbiamo visto a Londra, questa Shun Ten, questa cinese che addirittura nuota più veloce di Lochte in una frazione. Insomma, anche a te ha fatto lo stesso effetto, perché veramente sentire quelle parole fa venire i brividi. Ma la verità è che, voglio dire, Schwarz ha comunque ammesso di aver fatto un errore, di essere caduto nel tranello di un esame facile. Un peccato, perché ovviamente, sai, un campione olimpico che torna per cercare una scorciatoia non fa bella figura. Noi nel nuoto, fino a prova contraria, sono tutti quanti puliti. Il fatto che questa cinese lì abbia fatto un ultimo 50 inferiore a Ryan Lochte, che è un fenomeno, è vero, però c'è pure da dire che solitamente Ryan Lochte, quando è insieme a Michael Phelps, fa un secondo e mezzo ancora più veloce l'ultimo vasca, perciò indubbiamente è impressionante quello che hanno fatto, però bisogna un po' sfatare quest'ultimo 50 della I contro Lochte. chiedo ancora gestione tecnica di questa nazionale. Scomparso Alberto Castagnetti, si è perso un faro, un punto di riferimento. Più volte in questi giorni abbiamo detto dovesse venire un CT della nazionale a render conto di questi risultati, così a lume di naso non sapremmo indicare un nome. Questa gestione light della nazionale può essere quella adatta, oppure bisogna ripensare una struttura centrale con ruoli più definiti e precisi? Sì, ovviamente sai, i tempi vanno avanti, come Sky ha portato un'innovazione tecnologica, bisogna creare un organigramma ancora più complesso, perché in effetti da 10 anni a questa parte il nuoto ha fatto un salto di qualità mostruoso e CT Castagnetti avrebbe gestito forse in maniera diversa questo momento di panico. In chiave futura, secondo me assolutamente abbiamo bisogno di una figura. Io punterei, vuoi dire, senza allarmare nessuno, su un pezzo grosso che sia straniero o italiano, forse straniero è meglio perché almeno si farebbe influenzare meno e potrebbe fare in 4 anni, bisogna dare fiducia per 4 anni un lavoro. Se fai se buono, resta, è detta legge, se ne fa male, tutti a casa. C'è anche la generazione tua, quella dei Brambilla, tutto sommato perché non vedervi ancora atleti allenatori? Vi sentite nel ruolo? Tu ci staresti? Ma sai, io sono sempre ho un parametro che io faccio ancora l'atleta e mi diverto tantissimo. Per fare il tecnico bisogna essere preparati al massimo, e quando si parla di differenza tra un centesimo che si vince una gara oppure di 2 decimi per rimanere fuori dalla finale, bisogna essere ancora più preparati. Come la differenza si fa tra il vincitore vinto in acqua, nel nostro caso, così anche l'allenatore, purtroppo bisogna cercare di migliorarsi indipendentemente dal risultato raggiunto. Prima di Paolo Dalodi do questa notizia: lesione all'adduttore sinistro per Powell, niente staffetta, 4% per il giamaicano. E voglio far sentire un'altra battuta di Schwarzer. Carolina Kostner non c'entra niente con questa vicenda. Adesso sono molto dispiaciuto perché ho buttato via tutti gli anni dove mi sono allenato così. Però sono anche contento che è finito tutto e che forse adesso riesco a fare una nuova vita normale. Ecco, io vorrei ancora dire 2 cose. La prima riguarda la mia fidanzata. Per me non è stato facile dire che la medicina nel frigo che io avevo messo in un'altra scatola era della vitamina B12 e non era EPO. Per me non era facile dire questa bugia e mi vergogno tanto, però lei veramente in questa cosa non c'entra niente. 800 24 00 24, il numero verde. Fra 6 mesi, quando Alex avrà compiuto qualche gesto inconsueto, voi giornalisti sarete i responsabili. Vergognatevi, infami. Beppe da Vicenza. Paolo Dalodi. Sì, buongiorno dottor Genta. Senti, volevo cambiare argomento e parlare di pallavolo. Sì, come no. Nell'ambito, io sono nella pallavolo da 30 anni, adesso alleno, quindi qualcosina di mio, sì, con la mia idea. Sull'ambito femminile non dico nulla perché ormai vabbè, è andata come è andata. Forse avrei tentato di tutto e di più con qualcuno in panchina e non cambiare solo la Costa Grande. Volevo sentire la sua opinione sul lato maschile. Come si fa ad andare alle Olimpiadi con un mezzo opposto, perché secondo me l'asco non è così determinante, e con un'eventuale riserva che gioca da centro, e con un altro ancora in campo che l'anno prossimo a Macerata farà l'opposto, che è Zaitsev. Quindi convocazioni sbagliate, secondo lei? Secondo me sì, o quantomeno una gestione sbagliata, perché se Fei deve essere il sostituto di Lasco, non può essere in campo a fare il centrale. Quindi la soluzione quale poteva essere? Ma andare con un sestetto diverso, con un Mastrangelo o anche un Buti, mi sembra che non era male come centro, sì, e mantenere fisso un Fei alternato a Lasco, o quantomeno anche così com'è le convocazioni potevano andare bene, però dal momento che vedi che stai giocando male o che stai perdendo devi provare a fare, sì, di tutto, anche a mettere piuttosto Zaitsev da opposto. La sento pessimista sulle nostre possibilità di questa sera contro gli Stati Uniti. Guardi, io all'ultima palla dell'ultimo set sono fiducioso. quindi ogni partita è a sé, poi sono partite secche. Gli Stati Uniti, però, secondo me, anche a livello psicologico hanno una convinzione in più. Berruto l'ho visto urlare come non mai. Sì, è vero. E quindi vuol dire che vuol dare una scossa un pochino diversa, e non vorrei che i ragazzi non cogliessero la vuol dire che non è convinto nemmeno lui, però la partita chiave è quella di stasera. Non abbiamo fatto benissimo fin qui, si sono viste dei difetti, delle smagliature anche tattiche, come lei dice. Però la partita che conta è quella di oggi alle 17 contro gli Stati Uniti. Vincere per andare avanti, e a quel punto sappiamo benissimo, e lei sa meglio di me, quale può essere la carica che ti dà questa partita, che è quella del crocevia, oppure tornare a casa. A quel punto effettivamente sarebbe stata, rispetto alle attese e al cammino che ci ha portato a Londra, un'Olimpiade sottotono anche per la pallavolo maschile. Intanto... c'è questa vocina, io mescolo le cose così come vengono, perché insomma le agenzie lavorano quindi già che sono qui ve le do. Non c'entra nulla né con la pallavolo né con Schwarzer, ma con il calcio e con il mercato. Sabatini della Roma ha detto: mi hanno offerto Cassano, è stato un intermediario, non meglio precisato. Anche qui non saprei cosa dire, però questa vocina di una avvicinamento, di una simpatia rinata tra Cassano e la Roma esiste. Fulvio, Trieste, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Buongiorno, volevo fare una domanda, signor Genta, sì. Spero di conoscerla. Quando succedono queste cose, no, del doping, no? Quando uno viene beccato, perché non viene squalificato a vita, punto e basta? Perché i regolamenti non dicono questo, perché la legge sportiva non dice questo. La legge sportiva prevede una graduazione delle sanzioni che non arriva a quella che lei dice. Poi possiamo, è quello che ho detto prima, no? Possiamo discutere, possiamo capire se il gioco vale questa candela perversa oppure no. È chiaro che di fronte alla possibilità di una radiazione, un atleta malintenzionato ci penserebbe forse un po' di più, ed è per questo che ho detto che non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva, che parlava della certezza della pena. La certezza della pena in una qualche misura esiste nello sport, a differenza di altri settori. Bisogna capire se però quella pena certa è un deterrente sufficiente, di questo non sono così convinto. Allora, per rassicurare l'ascoltatore di prima, c'è Gianluca Di Marzio che twitta: sicuro, Chelsea Cavani non c'è nulla, i Blues non cercano altre punte, quindi stia tranquillo l'ascoltatore che vedeva già Cavani con lo zainetto verso il Chelsea. Fulvio Trieste sentito. Stefania Genova, buongiorno Stefania. Sì, buongiorno. Dica. Io sono una sua fan pazzesca. Ehi. E le voglio fare i complimenti per il suo equilibrio e la sua bravura. Sono stata tanto tempo negli Stati Uniti e la sentivo anche in podcast. Addirittura. Chiamo perché grazie. Ho grande sì, per lei mi piace. Oggi ho avuto le lacrime agli occhi a vedere quel ragazzo che faceva quell'outing pazzesco. Lei ricorderà quel video di Cannavaro che si faceva delle pere di roba? Sì, abbiamo mai visto delle un calciatore in una situazione del genere? No, Stefani, io allargo il discorso. È raro vedere sportivi in situazioni del genere, perché io ho assistito, lo dicevo anche ieri, a conferenze stampa tra il ridicolo e il vergognoso di ad esempio di corridori beccati che si arrampicavano sugli specchi mostrando i certificati del dentista, raccontando di storie di caramelle, raccontando, ma questa è vicenda molto più nota, la storia del filetto che aveva dentro chissà che cosa, raccontando di sostanze che erano state somministrate all'insaputa, raccontando un sacco di stronzate di questo tipo. Quindi ne ho sentite talmente tante che oggi non posso che provare un sincero rispetto nei confronti di un atleta che ha cercato di barare, di rubare, come Alex Schwarzer, che però adesso ci ha messo la faccia e ha raccontato la sua storia. Poi capire se sia tutta la storia, ed è questo che mi sembra un punto importante, è un punto su cui Io credo si debba anche far luce, perché ho fatto tutto da solo, sono andato ad Antalya, 1500 euro, l'ho presa, l'ho messa nel frigo, tra le vitamine, e poi bussavano i controlli, dicevano, facevo dire che non c'ero, eccetera. Io insomma faccio un po' fatica a capire che, se me lo racconta un atleta qualunque, un amatore, che ne so io, ma se lo racconta la punta di diamante dell'Atletica Azzurra, mi diventa un po' più complicato accettarlo e capirlo e crederlo fino in fondo. Credere fino in fondo a questa versione. Un'ultima battuta di Schwarzer, poi saluto Dario Ricci da Londra. Però ci tengo a dire che sono sicuro che, anche se questo non fosse successo, io alle Olimpiadi non ci sarei andato, perché io non trovavo la forza di farla 20 per tutto questo periodo, e neanche per la 50, penso, perché... Però questa notizia della positività è uscita 2 giorni fa, e io la mia partenza non sarei ancora partito, partirei domani solo. Quindi io alle Olimpiadi comunque non ci sarei andato, questa è un'altra verità di Schwarzer, che contraddice Gianni, che scrive: se la faceva franca non si sarebbe mica pentito. Non credo Gianni. Dovuta precisazione, si è parlato prima, Stefania ha parlato di quella flebo di Cannavaro. Quella flebo di Cannavaro, fino a prova contraria, erano prodotti illeciti, non era doping. Rimane il ricordo di quel video un po' stupidotto in cui si fanno delle battute idiote sul doping, eccetera. Saluto, giusto il tempo per salutare Dario Ricci e dargli appuntamento a più tardi. Dario, grazie. Grazie a voi Carlo, ci sentiamo da Euroscorta, dalla Pallavolo. Fantastico, a dopo con Dario Ricci, a domani con tutti voi dalle 14 alle 15. Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia, ciao a tutti.